per firmare. Nel pacco cosa c'è? C'è un vaso arabo, c'è scritto sfregami, vengo a salvare tua anima. Salvare mia anima, vieni a salvare mia anima. Tu grande zaffiro di mia casa, gocce di pioggia di mio Sahara. Salvare mia anima.